Storiacce di Raffaella Calandra. Las Vegas, the most popular gambling destination in the world. 38 million tourists a year. Lo sguardo del croupier va ora sull'uno, ora sull'altro giocatore. Il viso resta immobile, il disco ruota, la pallina salta da una casella all'altra. Al casinò c'è chi va per il gusto dell'adrenalina, chi per cercare fortuna, chi ancora perché del gioco è diventato malato. Ma al tavolo verde si siede anche chi è mandato dai clan per ripulire i soldi sporchi. Denaro che arriva da estorsioni, droga e traffici vari e che poi, grazie a quella pallina o alle carte e a una dose di fortuna, esce da lì candido. Las Vegas, Nevada, the city of daytime sun and nighttime fun. Succede così che nullatenenti, totali, persone senza lavoro e senza neanche una casa possono puntare centinaia di migliaia di euro alla volta. Succede così che il movimento di una roulette possa sbiancare pure i soldi di quei boss infiltrati nella ricostruzione post-terremoto all'Aquila. Succede ancora che i emissari delle mafie possono essere ricevuti con tutti gli onori perché clienti VIP. Tocca a tutti e quattro i casinò italiani. L'indagine della Direzione Investigativa Antimafia partita 2 anni fa con 60 nomi e un sospetto che qui si riciclassero soldi sporchi. E da qui allora, da un tavolo verde, parte questa puntata di Storiacce seguendo il cammino dei soldi. Just follow the money. Follow the money, segui i soldi. Lo suggeriva già la gola profonda del Watergate, lo teorizzava Giovanni Falcone come regola fondamentale di tutte le inchieste di mafia. Segui i soldi. E proprio il cammino dei soldi ha portato gli uomini della Direzione Investigativa Antimafia ad entrare in tutti e quattro i casinò italiani. Sanremo, Saint Vincent, Campione d'Italia e Venezia, con 60 nomi in mano e con un sospetto che al tavolo verde possa sedere molto spesso anche la mafia. 2 anni dopo quella prima raccolta di informazioni è possibile ricostruire ad esempio le storie come quella di un agricoltore napoletano, ufficialmente proprietario di nulla, ma che alla roulette puntava ogni sera fino a 100.000 euro. Non ha una casa né un lavoro stabile, per il fisco è nullatenente, ma per il tavolo verde era uno dei giocatori migliori con le sue ricche puntate che ad un certo punto però hanno insospettito anche i vertici del casinò. E anche il suo nome è tra quelli controllati dalla DIA, perché spesso il riciclaggio si associa al mondo del gioco d'azzardo, ammette il colonnello Omar Di Pesce. La Direzione Investigativa Antimafia, in effetti, già dall'ottobre 2013 si è occupata di verificare la posizione di taluni clienti di questi casinò italiani, raccogliendo tutta una serie di elementi che tuttora sono ovviamente oggetto di approfondito esame. La fenomenologia riguarda di fatto la possibilità di introdurre attraverso il sistema dei casinò flussi di denaro che diciamo formalmente risultano in qualche maniera puntati sul tavolo verde, ma poi di fatto rientrano attraverso il cambio delle fish. Il sospetto della Direzione Investigativa Antimafia è che ci siano persone, che ci siano italiani che vadano ai casinò a riciclare i soldi provenienti da che tipo di reati? Uno dei canali tra virgolette privilegiati della criminalità organizzata per riciclare il denaro sporco è proprio il sistema di gioco in generale. Si va nel casinò, si cambia questo denaro in fish, si simula magari la partecipazione al gioco presso qualche tavolo e poi si riportano le fiche in cassa e questo denaro viene cambiato, viene rilasciata una ricevuta e quindi questo denaro diventa pulito. Chiaramente chi opera all'interno dei casinò non sono direttamente i soggetti collegati alle organizzazioni criminali, ma i cosiddetti prestanome, che si prestano proprio a diciamo partecipare in qualità di giocatori al sistema e quindi diciamo ripuliscono in questi termini il denaro. Almeno due giocatori a San Venzano sono stati coinvolti nell'inchiesta Minotauro sulle presenze dell'Andrangheta in Piemonte. Altri ancora, con legami con le cosche calabresi, hanno frequentato il casinò di Sanremo. Sono questi due quelli prediletti soprattutto dagli affiliati alla mafia calabrese, ma porta invece fino alla Laguna il cammino di soldi di più imprenditori accusati di aver coperto la latitanza del superboss dei casalesi, Michele Zagaria. Conducono fino a Venezia le ricchezze di Alfonso Di Tella, che rivelava al telefono di essersi giocato 100.000 euro in 15 minuti, e quelle di Raffaele Cilindro, arrestato con l'accusa di aver coperto il superboss della Camorra. E proprio al casinò si consumavano i summit ricostruiti inizialmente dalla procura aquilana guidata da Fausto Cardella. Si è accertato che la presenza di interessi, diciamo così, del clan dei Casalesi in taluni settori della ricostruzione di L'Aquila. Indagando su questo episodio, su questi episodi, è venuto fuori che alcuni di questi personaggi, in qualche modo legati al clan dei Casalesi, facevano dei frequenti viaggi nei casinò dove erano ricevuti come clienti VIP. Essere VIP significa avere l'albergo pagato, tanti benefit, e naturalmente diventi VIP se spendi molto e se giochi molto. Tutto questo ruota intorno alla figura di un imprenditore. Non c'era un riscontro tra il dichiarato, diciamo, tra il reddito dichiarato e le somme che venivano investite, che venivano giocate, diciamo, nei casinò. In alcuni casi alcune inchieste hanno anche verificato che c'erano dei nullatenenti di fatto che invece poi puntavano centinaia di migliaia di euro ogni volta che giocavano. Nel caso specifico ci sono state anche delle puntate anomale che in qualche modo avevano fatto accendere una lampadina di allarme anche al casinò, oppure no? Seguono a loro modo le regole del mercato, le regole economiche: più soldi tu porti, più soldi investi nel casinò, ecco, diventi un cliente benemerito più che dare sospetti. Ce l'abbiano sicuramente dalle loro norme antiriciclaggio e anti-investimento, certamente sono... Assolutamente sì. Ecco. Però indubbiamente, per quanti controlli si possano fare, sa come spesso chi vuole investire, chi vuole riciclare, magari riesce a trovare le scamotage per farlo. Il più delle volte però, come dicevamo, sono dei prestanome a sedersi al tavolo verde per conto dei clan che tradizionalmente, come ha scritto più volte ed esplicitamente la Direzione Nazionale Antimafia nelle sue relazioni, usa le case da gioco come una forma di riconversione di denaro con risultati immediati. È per questo che da due anni il fascicolo sul sospetto riciclaggio si sta arricchendo di materiale, documenti e facce da incrociare. Tutto materiale finito sulla scrivania del colonnello Pesce. Monitoriamo, anche grazie al supporto dell'ufficio della presso la Banca d'Italia, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, la posizione di una serie di soggetti che individuiamo attraverso ovviamente evidenze sperequative nei flussi finanziari. Dopodiché abbiamo accertato che molti di questi soggetti, verosimilmente collegati alle organizzazioni criminali, erano frequentemente soggetti che operavano all'interno dei casinò come ovviamente giocatori tra virgolette semi o professionisti. Quindi su queste basi ovviamente noi siamo andati a seguire il percorso del tra virgolette denaro che vanno allo scopo di stabilire poi l'origine reale di questi soldi. Guardi, la stragrande maggioranza arriva ad esempio dal traffico internazionale degli stupefacenti. Un'altra rilevante parte riguarda ovviamente le attività tipiche delle organizzazioni criminali, non ultima ad esempio la tratta dei migranti. Evidentemente ci sono anche gli enormi profitti che vengono a generarsi attraverso la capacità che hanno queste organizzazioni criminali anche di insinuarsi nel sistema, ad esempio, delle forniture e degli appalti pubblici. All'interno, diciamo, di queste verifiche che sono state fatte, quali sono, diciamo, i profili delle persone? Si tratta di soggetti apparentemente slegati da contesti criminali, quindi con una fedina penale relativamente pulita, che però vengono utilizzati dalle organizzazioni criminali proprio per la loro tra virgolette figura pulita. Quindi sono per soggetti... lo più imprenditori, sono commercianti, ecco, sono persone. Si tratta ovviamente di soggetti che hanno ad esempio piccole attività commerciali, dipendenti o anche di partite IVA o Cocopro. Il riciclaggio sui tavoli verdi è sempre stato un po' tradizionalmente solamente una preferenza della camorra campana, è ancora così? O... Questo sicuramente lo possiamo affermare, che la camorra campana non solo è nei tavoli verdi dei casinò, ma in realtà in generale, ecco, i giochi, le scommesse sono uno dei target, uno diciamo dei sistemi affaristico illegali che utilizzano prevalentemente. Fu la camorra campana qualche anno fa a riciclare il denaro attraverso il sistema dell'acquisto dei biglietti vincenti o dei gratta e vinci vincenti, che poi presentava all'incasso e quindi riscuoteva, diciamo, il denaro, poi potendolo giustificare come vincita, diciamo, all'otto piuttosto che, come dice, accennavo, al gratta e vinci. Sappiamo anche che lo ha fatto anche su attività riguardanti il terremoto dell'Aquila. Sì, indubbiamente, come li accennavo, infatti il riferimento è proprio alla capacità che hanno queste organizzazioni di generare denaro illecito attraverso il sistema delle forniture e degli appalti, diciamo, con la pubblica amministrazione. Ma negli ultimi mesi c'è una variabile con cui fare i conti, la crisi che ad esempio sta strozzando il casinò di Campione d'Italia con uno scoperto milionario che lo rende facile boccone per i clan, che contemporaneamente però si stanno spostando, davanti a norme più severe in Italia, verso i casinò stranieri o verso quelli online, come sentiremo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Uno contro uno. Narra la storia più o meno leggendaria delle mafie che proprio la città per eccellenza del gioco d'azzardo, Las Vegas, nasca su soldi di Cosa Nostra siciliana. E possono essere ora i soldi della mafia a rilevare un casinò strozzato dai debiti? È un rischio che esiste anche per Campione d'Italia? Lo vedremo tra poco. Di sicuro quello che le carte delle inchieste documentano è che nei casinò la Cosa Nostra di Palermo e Villa Abate, ma pure quella più vicina a Provenzano, ha più volte provato a cambiare i soldi di usura e pizzo con altrettante fish. Benefit speciali accoglievano ad esempio i due guardaspalle dello stesso zio Bino Provenzano, come ha raccontato un pentito, Francesco Campanella, e alla direzione investigativa antimafia da 2 anni si lavora ad un fascicolo particolare nelle mani del colonnello Omar Di Pesce. Storicamente molti dei casinò aperti a Las Vegas sono legati proprio alla Cosa Nostra siciliana che aveva, diciamo, attecchito in America, quindi Cosa Nostra, diciamo, in realtà storicamente forse è una delle mafie che maggiormente ha puntato sul sistema del gioco d'azzardo, non solo per riciclare il denaro tra l'altro, ma anche per investire attraverso, come accennavo, la costruzione dei casinò, il denaro generato dalle attività illecite. Questa è anche una fase un po' di crisi dei casinò tradizionali. Ad esempio, il casinò di Campione d'Italia è in un momento di estrema difficoltà, ha uno scoperto finanziario di circa 120 milioni di euro. La crisi economica dei casinò in qualche modo li rende ancora più vulnerabili rispetto alle organizzazioni mafiose e a chi tenta di riciclare soldi sporchi? Assolutamente corretto, indubbio che le fasi di crisi come quella che si attraversa in questo momento consente alle organizzazioni criminali, che come sappiamo dispongono di enormi capacità finanziarie, di, tra virgolette, acquisire quote del capitale di questi casinò. Ma ovviamente, ecco, l'Italia fortunatamente ha un sistema di monitoraggio che consente di affermare, insomma, che questi sono rischi assolutamente gestibili. Ma che succede nell'enclave italiana in territorio elvetico? A Campione d'Italia, i 13 piani del Palazzo del Gioco, intorno a cui ruota tutta l'economia di questa cittadina, rischiano di crollare, strozzati da un buco di circa 120 milioni di euro. Almeno 80 milioni il debito verso il comune di Campione d'Italia, 2100 abitanti e 500 sono soltanto i dipendenti di questo palazzo. Gli incassi sono scesi da 140 milioni a 90 e il passato, con i suoi racconti di valigie piene di soldi e di segreti, sembra lontano dal parcheggio vuoto di questo palazzone progettato dall'archistar Mario Botta. La Guardia di Finanza qui sta lavorando per fare ogni verifica su entrate e uscite. E qui l'antimafia ha un doppio faro acceso, perché il rischio, ammettono alla direzione investigativa antimafia, e che le cosche possano comprarselo il casinò. Ma se le nuove norme che rendono obbligatorie anche le segnalazioni di chiunque cambi somme superiori ai 2.000 euro dentro i casinò, poi diventati 1.000, hanno reso più difficile i tentativi di riciclaggio, molti ora si stanno spostando verso altri lidi all'estero o sui casinò online. L'Italia, come sappiamo, ha 4 casinò autorizzati che sono ampiamente monitorati e che ovviamente in qualche modo partecipano attivamente a quell'attività, a quell'azione di verifica a cui lei faceva riferimento, segnalando tra l'altro la posizione di tanti, tra virgolette, clienti che operano in maniera anomala. Quindi noi abbiamo, assieme alla UIF della Banca d'Italia, la possibilità di verificare questi flussi e di intervenire adeguatamente. All'estero le norme sono meno stringenti, quindi non è escluso che ovviamente queste opportunità, queste occasioni di operare, diciamo, su tavoli verdi esteri consenta alle organizzazioni criminali, tramite i propri pestanome, di agire ovviamente più tranquillamente in contesti, diciamo, tra virgolette, meno controllati. Ecco, meno... ma quali sono i casinò stranieri privilegiati dalle mafie italiane? Ci sono luoghi notori come per esempio i casinò a Macao o comunque casinò fuori, diciamo, dall'area europea, che come sappiamo è coperta dalla terza direttiva contro il riciclaggio del denaro sporco e il finanziamento del terrorismo, dove indubbiamente le norme sono tali per cui ci potrebbe essere la possibilità di sfruttare, diciamo, questa maggiore libertà per riciclare, ripulire il denaro sporco e poi farlo rientrare in Italia attraverso ovviamente movimenti finanziari su conti bancari. C'è un spostamento verso i casinò online? È indubbio che il proliferare di questi, tra virgolette, casinò online, che oggi sono ovviamente regolamentati, esiste una normativa che in qualche maniera monitora la situazione, però ha consentito negli anni passati indubbiamente di aprire, tra l'altro su server esteri, tutta una serie di siti non controllabili proprio perché evidentemente fuori dall'area di competenza della polizia e dell'autorità giudiziaria nazionale, dove evidentemente le norme e i controlli relativi al denaro che veniva giocato era di dubbia origine. Segui i soldi e arrivi sempre a spiegare molte cose, comprese le infiltrazioni della camorra nella ricostruzione del terremoto dell'Aquila e nel riciclo di soldi anche al tavolo verde di Venezia, il procuratore aquilano Cardella. L'Aquila è un grosso affare, bisogna svolgere una funzione preventiva molto difficile per la verità e repressiva per quello che riguarda il nostro compito, quello che cerchiamo di fare. Se ci fosse un'altra normativa forse sarebbe un po' più facile. A che cosa fa riferimento lei, di che tipo di normativa invoca? Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica c'è una normativa molto stringente che presuppone, che comporta dei controlli, c'è una possibilità di sbarramento. Nel settore privato, ahimè, non c'è nessuna normativa e lì è una situazione dove il privato, senza commettere alcun atto illecito, può dare l'appalto per la ricostruzione del suo immobile o del complesso dei suoi immobili a chi vuole. In questo modo lei comprende che è facilissimo inserirsi. Da più parti si è chiesto l'estensione della normativa pubblica anche al settore della ricostruzione privata. Certo. Tra l'altro non dimentichiamo che la ricostruzione privata avviene con fondi pubblici. E c'è un progetto di legge in questo senso che fu redatto dal sottosegretario allora Legnini ed era quasi pronto per andare in discussione, per essere approvato. Si è nel frattempo arenato nel percorso normativo. Ecco, procuratore, ma quindi i vari casi di tentativi di infiltrazione che voi avete ricevuto sono soprattutto di che tipo? Infiltrazione in appalti privati? Nel privato essenzialmente. Mentre nel settore pubblico l'impresa deve esibire un certificato antimafia, ci sono una serie di controlli, il subappalto è molto molto disciplinato, regolato. Nel settore privato è tutto molto più lasco. La Procura della Repubblica di L'Aquila ha cercato di fronteggiare la situazione nell'attesa della legge con una interpretazione giurisprudenziale, ravvisando nell'amministratore di condominio, che è quello che tiene i contatti, una figura pubblica di ufficiale pubblico servizio. Certo. Certo, se ci fosse una legge saremmo tutti più tranquilli e sarebbe molto più efficace.